sera mi voglio divertir. Voglio un escort che mi faccia sognare quello che facevo tanto tempo fa. Ma ciò non si può fare, lo sa che è un reato. C'è sempre un magistrato che incassa sua maestà. E io faccio la d'alfa, la Bossi e la Cirani, la Lecce Pecorella, porto tutti al mio castello e tutti grideranno viva viva sua maestà. Cameriere, non c'è più morale se anche il premier vogliono arrestare, arrestare per chissà quale reato e non sanno che già l'ho condonato. Con il processo breve la legge è sempre un lieve, se c'è la prescrizione ci vorrebbe un gran festone. Io chiamo Bush e Putin, tu invita anche Noemi, se c'è Puglia Picella la festa è sempre più bella e tutti canteranno grazie grazie sua maestà. E Patrizia t'aspetta nel lettone. Ma non c'ho la pastiglia, non so più che mi piglia. E alla televisione c'è una manifestazione. Sono tutti comunisti, milioni di persone. Da dietro lo striscione mi danno del coglione. Ma ci sono qua io come Emilio il cagnolino, che lui dichiarerà che sono stati quattro gatti ad urlare in galera sua maestà.